Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Aurora Palandrani dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare Sequenze sul G8, il film a cura di Silvia Savorelli, proiettato per 4 volte lunedì 19 luglio 2021 all'AMOD. Aurora, ben trovata. Ciao Federico, grazie di avermi chiamata. Era per noi imprescindibile questo appuntamento. Non abbiamo ancora riaperto la sala Zavattini, come immaginerai, perché la nostra sala ha 35 posti, per cui anche mantenendo le misure di sicurezza non possiamo offrire, no, una programmazione diciamo stabile. Però abbiamo voluto comunque dare un segnale con questo film, per noi molto importante, e quindi abbiamo deciso di fare queste 4 proiezioni, che sono ovviamente su prenotazione obbligatoria, alle 10, alle 13, alle 16 e alle 18. Già stiamo ricevendo diverse prenotazioni, siamo molto contenti per questo, perché comunque è anche un momento per riflettere, stare insieme e parlare un po' di questa ferita perennemente aperta, no? Cioè, nel senso, chi ha vissuto quel periodo non l'ha assolutamente messo da parte. Per noi è stato un momento importante, esiste un prima e un dopo Genova, come per tanti di noi, e il film, insomma, è un po' il frutto di questo momento. È stato realizzato da tutte le ore che abbiamo raccolto, circa 36 ore che hanno raccolto i nostri operatori a Genova, ed è un film antologico. Insomma, un momento importante, dai. Che durata ha il film? 1 ora e 10, da 36 ore. Devo dire, Silvia ha fatto al tempo un grandissimo lavoro, ha scelto di mantenere le sequenze molto lunghe, si chiama per questo Sequenze sul G8, da questa volontà è stato mantenuto molto lo stile che ha guidato un po' il lavoro di raccolta, no, di questi operatori che sono andati per noi a girare. Voglio ricordarli, sono dei filmmaker anche molto, insomma, importanti con il tempo, e hanno fatto un grandissimo lavoro. Sono Vincenzo Mancuso, Enrico Ludovici, Giorgio Bergami e Andrea Tozzi. Le immagini, ogni immagine ha una grande storia dietro, devo dire, e quindi è importante dire anche chi sono. Ecco, proprio in questo senso, qual è il valore di questo lavoro? È una testimonianza. Noi non volevamo dare nessuna risposta, volevamo dire che cosa è stato il rumore assordante degli elicotteri, le corse, l'affanno, la paura. Questo poi, diciamolo, è un film realizzato quell'anno, nel senso del 2001, quindi era una testimonianza, era il nostro punto di vista su quello che stava accadendo e quello che era appena accaduto, ecco. 4 punti di vista dall'interno delle manifestazioni? Sì, assolutamente sì, perché c'è chi ha seguito per esempio i migranti, chi ha seguito la rete Lilliput, si sono divisi bene, diciamo, questo grande lavoro. Voglio ricordare anche, Federico, che il film in questa occasione, in questi giorni del ventennale, viene proiettato anche in altre città e anche in altri festival. Abbiamo voluto fare una cosa in contemporanea, voglio ricordare, saremo in contemporanea a Pistoia Doku Film Festival, dove presenteremo proprio il film più o meno nello stesso orario, perché alle 20 di lunedì 19. Sempre lunedì 19 all'interno di Sicilia Ambiente Film Festival, San Vitolo Capo, alle 23 sarà sempre proiettato Sequenze, e il 21 alla festa di Cinema del Reale. Quindi abbiamo cercato di fare un piccolo tour. Proiezioni semplici o accompagnate anche da momenti di dibattito? Vogliamo lasciare, diciamo, al momento, no? Cerchiamo di capire chi arriverà a trovarci. È una situazione molto amichevole, ci piace pensare, insomma, che vengano persone a trovarci per vedere il film e scambiare anche un po' di impressioni. Siamo qui, ovviamente ci sarò io, ci saranno i miei compagni e colleghi dell'archivio, Vincenzo Vita, il presidente dell'AMOD, e vi aspettiamo per questo. Rivedere quelle immagini 20 anni dopo, che effetto ti ha fatto? È stato un momento importante per l'archivio Genova, è stato importante catalogare per gli archivisti tutte le immagini che abbiamo raccolto. Io non sono stata a Genova, quindi non ho nella testa il rumore degli elicotteri come tutti mi raccontano, ma ho nella testa le voci, le urla delle immagini che andavano costantemente in archivio in quei giorni in cui c'erano gli archivisti che catalogavano, non dico 24 ore su 24, ma certo 12 ore al giorno quelle immagini lì. Ho aiutato Silvia, ho seguito Silvia durante la selezione. Rivederle adesso, bah, mi riporta veramente indietro ad un periodo in cui il movimento era molto molto presente in ognuno di noi, e forse molto poco molto poco ora, insomma. Però dai, è una bella emozione, devo dire che è una bella emozione. Ci dai tutti i riferimenti internet? Certo, allora bisogna prenotare all'indirizzo email eventi@amod.it specificando l'orario. Ricordo, 19 luglio, la prima proiezione è alle 10, poi alle 13, alle 16 e alle 18 l'ultima proiezione. Vi aspettiamo. Sequenze sul G8. A cura di Silvia Savorelli presso l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico lunedì 19 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Aurora Palandrani dell'AMOD. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto. Con Alessandro Scillitani, regista del documentario Ritorno sui Monti Naviganti. Ben trovato. Ciao, ciao, ciao Federico. Che racconto è questo? È un racconto che trae le sue origini sicuramente dai miei grandi interessi nei confronti dell'abbandono, cioè diciamo di ciò che noi dimentichiamo. E poi nello stesso tempo è un viaggio che ha le sue radici anche nella lunga collaborazione col grande scrittore e viaggiatore Paolo Rumiz, che fece nel 2006 un viaggio memorabile in Topolino, appunto attraversando l'Appennino in cerca di storie. Ecco, e in cerca di storie appunto sia negative ma anche soprattutto positive. Ecco, e questo racconto quindi vuole in un certo senso dare un segno di speranza, diciamo, di ciò che noi non consideriamo e che molto spesso invece ha un grande valore. E mi è capitato appunto in questo viaggio di trovare tante storie di nipoti, di ragazzi che in un qualche modo dopo lungo tempo lontani dalle terre di origine magari appunto sono tornati sui passi dei nonni e hanno deciso di riabitare l'Appennino. Se noi guardiamo la cartina della nostra penisola è incredibile quanto spazio occupi appunto l'Appennino, è la spina dorsale dell'Italia. Eppure la nostra vita è concentrata nelle città, quindi dimentichiamo l'importanza appunto di un rapporto anche più forte con la natura, questa natura che oggi, no, ci si presenta nelle sue facce diverse, no, anche in un momento storico come quello che ci troviamo a vivere, e quindi insomma il rapporto sano con un'energia positiva, questo è il racconto. Com'è stato l'ordine del processo? Prima il viaggio, poi il romanzo e poi il documentario? Il romanzo è nato nel 2006. Io ho seguito Paolo Rumiz in diversi viaggi nei quali fondamentalmente il racconto era contestuale, diciamo, alla raccolta anche delle storie attraverso la macchina da presa. In questo caso si è trattato proprio di un ritorno. Infatti si chiama Ritorno dai Monti Naviganti proprio non a caso. Sia perché è un ritorno in temi a me cari, cioè che hanno a che fare con l'abbandono. Io ho fatto un documentario che si chiama Case Abbandonate e il ritorno sui Monti Naviganti in qualche modo è un ritorno a quei temi visti in termini positivi. Invece per quanto riguarda il ritorno anche appunto al viaggio che fece Paolo Rumiz per scrivere il romanzo, quindi in effetti sono passati 10 anni e più dalla costruzione del libro di Rumiz e in questo caso quindi si tratta proprio di un nuovo viaggio che io ho voluto realizzare coinvolgendo naturalmente anche Paolo, ma non era contestuale al romanzo. E però devo dire che la forma del viaggio io l'ho presa moltissimo da lui, proprio perché noi documentaristi ci rendiamo conto che ogni racconto è sempre un viaggio, però effettivamente realizzare un film può significare anche mettersi in ascolto delle storie anche in modo sporadico, cioè uno potrebbe anche decidere di andare un giorno da una parte, un giorno dall'altra parte. Con Paolo Rumiz io ho imparato quanto sia importante invece fare veramente un viaggio, cioè partire, come è stato in questo caso, dall'inizio, dalla Liguria, dal punto iniziale convenzionalmente considerato bocchetta d'altare, inizio dell'Appennino, fino ad arrivare alla Spromonte, dove idealmente si conclude il viaggio. Perché? Perché apparentemente può sembrare che non stare nel rigore, diciamo, di un racconto che magari ti permette di decidere che boh, stai un giorno di più perché magari per la narrazione ci serve per raccogliere un'immagine migliore, possa essere meglio. Però in realtà io ero spaventatissimo, devo dire la verità, le prime volte che ho affrontato i viaggi in questo modo, è proprio con Paolo Rumiz, perché magari dovevo seguire le necessità del viaggio e non quelle del filmmaker. Tuttavia devo riconoscere che la ricchezza degli incontri e delle storie con cui si ha a che fare, in modo anche del tutto inaspettato, è veramente straordinaria. E quindi, al di là del primo timore, la forma del viaggio reale e autentico paga sempre. E questo è stato quindi l'approccio con il quale io ho affrontato questo racconto, che comunque, ripeto, comunque è assolutamente successivo alla scrittura. Ci dai tutti i riferimenti per saperne di più su internet? Il mio sito, naturalmente, il sito di Firementi, il sito di Italia che Cambia, nei quali ci sono tutte le informazioni riguardo alla distribuzione e alla fruizione dell'opera, che tornerà appunto nelle sale nel mese di agosto, e poi appunto ci sono alcuni estratti del film, sarà possibile vedere e avere anche informazioni su questo racconto, che in un qualche modo non è soltanto appunto un film, ma è anche l'occasione per riflettere su una serie di tematiche che sono molto importanti e attuali, devo dire, rispetto anche all'epoca in cui ci troviamo a vivere. Il documentario Ritorno sui Monti Naviganti. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Scillitani. Un in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie a voi. Con Cristiano Gervino, co-direttore artistico di Film Society Altra Visione. Quattro arene tra Roma e Torino e piattaforme online dal 5 luglio al 13 settembre 2021. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie Federico di questa occasione per parlarne un po'. Nuova avventura, un po' più complicata, raccontacela un po'. Tutto prende le mosse ovviamente dalla mia lunga esperienza del kino e poi dalla prima edizione dell'anno scorso di Film Society al Teatro India. Questo anno e mezzo di grande difficoltà per il cinema ci ha dato anche il tempo, la risorsa per immaginare qualcosa di più grande per il futuro, perché ci siamo immaginati non solo di allargare la proposta in altri luoghi. A Roma saranno tre, appunto il Teatro India, il Monk e una mini rassegna anche a Casetta Rossa, e poi un altro spazio invece a Torino, altra grande città di cinema, al Bunker. Non solo questo, anche il rapporto fra il cinema, la sala e dunque tutto quello che abbiamo vissuto maggiormente in questa epoca, ovvero lo streaming, con una partnership per noi molto prestigiosa che è quella di Mubi. Quindi tantissimi film sia dal vivo che online, in una grande rassegna sia all'aperto che online. I titoli più o meno quanti saranno? Tra cortometraggi, documentari e lungometraggi saranno circa 130 proiezioni, tantissime cose da vedere, molte presentate in sala, molte italiane. Ovviamente c'è questa partnership anche con Rai Cinema, che porta una selezione dei migliori cortometraggi di quest'ultimo anno, sia italiani che internazionali, con gli autori in sala, alcuni collegamenti da fuori, quindi molto molto rapporto con gli autori. In questo anche faremo degli incontri con Nicola Maniti, con molti autori che faranno delle lezioni, Francesco Bruni, Alessandro Fabbri, Valia Santella, molti altri, molto orientato sulla scrittura, ovviamente molto orientato sul lato autoriale del cinema e lato art house del cinema. Rispetto alla scelta dei titoli?

È un festival sui diritti umani e tutela dell'ambiente, cioè in realtà è un festival sullo sviluppo sostenibile che esiste appunto da 13 anni e che riesce, che continua ad andare avanti anche l'anno scorso, devo dire, in quell'emergenza, con quella situazione terribile che abbiamo vissuto, siamo riusciti a fare il festival in presenza. Quest'anno siamo di nuovo in campo, riusciremo a fare anche quest'anno, a quanto pare fra qualche giorno partiamo, ed è un festival ricco ormai di appuntamenti, devo dire. Una delle cose di cui vado più orgoglioso è il fatto che, oltre ai premi ovviamente del Sicilia Ambiente, abbiamo due premi speciali, che sono il premio Greenpeace Italia e il premio Amnesty International Italia, che rendono il festival in qualche modo unico nel panorama dei festival cinematografici in Italia. Quante opere quest'anno? Dall'anno scorso in realtà abbiamo aperto una nuova sezione, che è la sezione di fiction, lungometraggi. Quindi quest'anno abbiamo quattro sezioni, la sezione competitive parliamo, abbiamo la sezione di appunto fiction lungometraggi, che sono 6 opere, abbiamo 8 opere nella sezione lungometraggi documentari, 12 opere nella sezione cortometraggi di fiction e 10 opere nella sezione animazioni. Quindi insomma la somma sono oltre 40 film tra gli eventi speciali, con gli eventi speciali che tra l'altro quest'anno puntiamo su 2 eventi speciali soprattutto dedicati ai diritti umani. Uno è i fatti di Genova, che c'è l'anniversario purtroppo della morte di Carlo Giuliani, e l'altro è i 60 anni di Amnesty International, e quindi faremo anche il film su Amnesty International. È prevista la presenza anche di autori e autrici? Sì, guarda, incredibilmente, devo dire, anche inaspettatamente, abbiamo una presenza massiccia degli autori, soprattutto nella sezione documentari, devo dire, vengono da tutte le parti del mondo, e sono veramente tanti, ogni giorno abbiamo almeno 2-3 ospiti e registi che saranno con noi a presentare le proprie opere. Devo dire che questa è stata, da un lato, una sorpresa, dall'altro era quello che speravo, perché c'è proprio venuta fuori una voglia di ricominciare, una voglia di rigirare, andare in giro per il mondo, di presentare le proprie opere, di presentare i propri film. Insomma, è un periodo veramente drammatico per gli autori, che sono, ci siamo ritrovati tutti un po' chiusi nelle case con dei film spesso fatti che rimanevano però nei cassetti, insomma, veramente tragico. E quindi questo ritorno, diciamo, alla normalità, anche se non si sa per quanto durerà ancora, devo dire era voluto fortemente dagli autori. E quando è uscita la lista dei film, devo dire, le adesioni sono arrivate quasi immediatamente da parte di tantissimi, veramente tanti. Quali sono le tematiche più presenti? Ovviamente abbiamo sui diritti, sull'ambiente, abbiamo Greta, che è molto presente, ovviamente, anche quest'anno, con il movimento anche Free Day. E poi abbiamo delle tematiche un po' tipiche, cioè nel senso, i cambiamenti climatici da un lato appunto sono molto legati anche ai film legati alla presenza di Greta, però c'è anche la tutela dei mari, per cui degli animali, c'è un film bellissimo sulle balene, sulla caccia delle balene, ci sono dei film sull'Amazzonia e sui disastri provocati dalle trivelle azioni dell'Amazzonia, che sono un po' dei temi abbastanza ricorrenti negli anni, ma che a quanto pare sembrano irrisolvibili, anche se c'è sicuramente un aumento della sensibilità in giro per il mondo sulla questione climatica, anche dovuta, secondo me, per questa pandemia, che si ci rende conto che forse, insomma, in qualche modo è legata anche a questo maltrattamento dell'ambiente. E poi c'è ovviamente la parte dedicata più ai diritti, che spesso comunque coincide sul film sull'Amazzonia. Ovviamente c'è da un lato la tutela dell'ambiente, questo disastro provocato dalle estrazioni del petrolio, ma dall'altro anche i diritti di questi poveri popoli che cercano di resistere e di mantenere una loro dignità, e che viene calpestata ovviamente in modo incredibile queste multinazionali. Quindi diciamo il panorama è abbastanza variegato, è ricco, e poi ci sono tante cose legate anche ai diritti delle donne. Insomma, gli argomenti sono veramente tanti. Per esempio, ho avuto anche dei film legati ai cambiamenti climatici da un punto di vista dei diritti umani, quindi il problema delle migrazioni derivanti dai cambiamenti climatici. Oppure abbiamo anche un film No News, un inedito per l'Italia, e che parla degli sbarchi, e in realtà parla delle ONG e del blocco delle ONG nei porti, insomma. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? www.festivalsiciliaambiente.it, ovviamente anche sui social ho trovato un po' tutto, la pagina di Facebook, di Instagram. Poi volevo sottolineare anche un evento che cui teniamo, oltre ai tanti incontri che abbiamo, perché abbiamo incontri con Greenpeace, abbiamo incontri con Amnesty International, abbiamo incontri con l'ARPA, ma abbiamo soprattutto un concerto, un incontro, un un'intervista concerto con Roy Paci, come testimoniano di Amnesty International, che venerdì 23 sarà con noi al festival. Per l'ultima cosa, Federico, che cui tengo è che quest'anno la grande novità che stiamo cercando di lanciare, che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi in realtà, è il fatto che faremo una versione autunnale del festival con film tutti ex novo, cioè che non sono quelli presenti in quest'estate, ma che saranno lanciati nuovi, tutti in due nuove sezioni di film in autunno, quindi magari poi ci risentiamo se ti va per parlare della sezione autunnale quando si avvicinerà il momento. E quindi il festival insomma cresce ancora, ogni anno cerchiamo di fare un passettino in più, di ingrandirci e di essere presenti un po' tutto l'anno. L'obiettivo è quello, che il festival sia una realtà significativa per tutti coloro che vogliono conoscere la fotografia legata ai diritti umani e alla tutela dell'ambiente in questo paese. Ci sentiremo volentieri. 13ª edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 18 al 24 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Belliglia. Un in bocca al lupo e a presto. Vivi il lupo e a presto. Beh, aspetto anche che prima o poi ci sarai pure tu qui, magari farai una diretta prima o poi. Magari. Da San Vito. Un caro saluto a tutti e grazie della fiducia che ogni anno ci date, dello spazio che ci date. Con Enzo Bevar per presentare la 16ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra dal vivo e online dal 14 luglio al 2 ottobre 2021. Ben trovato. Buongiorno Federico, grazie. Raccontiamo la realtà di Libero Cinema in Libera Terra. Come sai, lo scorso anno in risposta all'emergenza sanitaria è stato il primo anno in cui non abbiamo potuto montare lo schermo del cinema itinerante nelle piazze e abbiamo comunque trovato una soluzione che è stata quella di proporre la visione dei film in streaming su MyMovies accompagnati da dei talk che ci consentivano comunque di tenere accesi i riflettori sulle realtà, sulle cooperative, su quei territori che quotidianamente vivono il contrasto alle criminalità organizzate, allargando anche un po' l'orizzonte degli argomenti cari a Cinemovel, approfondendoli con tanti ospiti. Proprio per questo anche quest'anno abbiamo optato per una formula mista che ci consente di tornare finalmente nelle piazze, nei comuni dove il cinema itinerante riaccenderà le serate riportando anche lo schermo in dei territori in cui le sale magari non hanno neanche più riaperto e quindi è ancora più importante probabilmente costruire insieme una proposta culturale insieme ai territori, intendo, ma i film saranno tutti comunque disponibili su mymovies.it assieme a un magazine. Abbiamo deciso appunto di creare 5 puntate di Libero Cinema Magazine che ci serviranno un po' a costruire un pensiero assieme a filosofi, giornalisti, attivisti, registi, autori, attorno a dei temi caldi. Iniziamo con il cinema che entra a scuola e quindi con un'attenzione particolare data proprio all'emergenza educativa che continua a essere per Cinemovel un pallino che sosteniamo da tempo, e assieme a questo ci saranno altri temi che avremo il piacere di condividere appunto con dei pensatori moderni. Quanti sono i titoli scelti per questa edizione? Ci sono 12 serate, 12 titoli diversi, si tratta di 10 film e 2 spettacoli che saranno possibili da vedere dal vivo oppure anch'essi su mymovies.it. Abbiamo dato una forte attenzione al cinema italiano, quindi su 10 film 8 sono documentari italiani di giovani e meno giovani documentaristi, ma comunque opere che pensiamo sia importante portare nelle piazze e avvicinare appunto a un pubblico che diversamente con fatica probabilmente le avrebbe potuti vedere. Partiamo da Fitting the Mafia, un bellissimo documentario della regista Kim Longinotto che racconta anche il non visto dietro alla straordinaria fotografa Letizia Battaglia, e accompagniamo due spettacoli prodotti da Cinemovel che sono Mafia Liquida e Ricchitopoli e tanti altri film che sono comunque già disponibili da adesso sulla piattaforma di Cinemovel su mymovies.it. Quante saranno le tappe e in quali regioni? Dal vivo saremo presenti con 7 tappe in 5 regioni. Iniziamo da Lecco e saremo a Maiano di Sessaurunca in Campania, dove ci fermeremo per 2 giorni. Continueremo il nostro viaggio in Puglia a Cerignola a sostenere la cooperativa Pietra di Scarto, per poi arrivare in Calabria a Polistena e a San Ferdinando e chiudere con un'ultima tappa speciale al Giardino della Memoria di San Giuseppe Iato, dove appunto si chiuderà il primo blocco della carovana per poi ridarsi appuntamento come ogni anno a ottobre all'interno del Festival Internazionale. Raccontaci anche qual è la situazione oggi degli spazi sottratti alla criminalità organizzata. Lo faccio per cercare di riassumere un po' il pensiero di chi poi questi territori li vive ogni giorno. C'è un po' una preoccupazione nel vedere un tentativo di normalizzazione di un mondo che invece deve difendere con le unghie e con i denti quello che è stato conquistato fino ad oggi. Mi riferisco alla legge che ci consente di avere oggi sui beni confiscati in tutta Italia delle esperienze straordinarie di riutilizzo sociale. La paura di tornare a vendere i beni confiscati, di vederli rimettere in vendita nei territori dove sappiamo benissimo poi chi li andrebbe a comprare, è sicuramente una paura concreta che condividono tante realtà di cooperative nate sui beni confiscati. E quelle che raggiungiamo durante la carovana sono delle esperienze straordinarie, consolidate anche da anni e che forniscono in diversa modalità, dal settore agricolo alle cooperative di inserimento sociale di tipo B, un'alternativa concreta in territori ad alta densità mafiosa e quindi, oltre a fornire un'alternativa di economia legale, di prodotti biologici, quindi di prodotti anche di qualità, e sicuramente rappresentano ormai una conferma di un'alternativa possibile. Sicuramente c'è bisogno di tanta attenzione da parte dello Stato e di un investimento forse anche maggiore proprio per prendere queste buone pratiche e consentirci di allargarle a tanti beni confiscati che oggi ancora non sono stati magari neanche assegnati. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Tutti i dettagli sul festival sono cinemovel.tv. Vi do però anche il riferimento della piattaforma di Libero Cinema su MyMovies, che è www.mymovies.it/live/cinemovel. Sedicesima edizione di Libero Cinema in Libera Terra, dal vivo e online, dal 14 luglio al 2 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Enzo Bevar di Cinemovel. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie a te Federico, grazie a voi e come sempre con piacere, a presto! Con Sergio del Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino per presentare Centocelle City Movies. Il giovedì e il martedì dall'8 luglio al 5 agosto 2021. Sergio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Raccontiamo questa nuova rassegna. E anche quest'anno Centocelle City Movies scende in arena, nell'arena del Parco Esterno e nell'arena della Piazza d'Armi di Destra. Proietteremo dei film su grande schermo, quindi si tratta di due proiezioni due volte a settimana, si tratta di 18 film per 9 date. Come ogni anno, come scelta proprio nostra, ci piace proiettare quelli che chiamiamo i filmoni, e abbiamo produzioni tendenzialmente molto recenti, si parla di Judas and the Black Messiah, di Chaka King, Finch, Nomadland, Volevo nascondermi, Tenet di Christopher Nolan, insomma, grossi film di ampia distribuzione. Quest'anno abbiamo fatto questa scelta di proiettare anche Godzilla vs. Kong, insomma, cinema popolare per godere proprio del tempo che si sta davanti a uno schermo. E come ogni anno facciamo anche delle presentazioni, degli incontri, diamo spazio alle produzioni indipendenti. È un cinema che getti anche uno sguardo particolare su mondi che a noi del Forte stanno molto a cuore. E parlo di film un po' più grossi dal punto di vista della produzione, come Notturno, del documentarista Gianfranco Rosi, che ci lancia negli scenari del nord della Siria con questo stile documentaristico suo proprio. Poi incontreremo la regista Viale Tulli e la produttrice Laura Romano del film Normal, che è un film che è uscito l'anno scorso. L'anno scorso non riuscimmo a presentarlo e siamo contentissimi di farlo quest'anno. Giovedì 8 luglio, data di esordio della rassegna, presenteremo una selezione dalle ultime edizioni del Nazra Palestine Film Festival. Questo un po' perché, insomma, l'avevamo già presentato nel 2018. Quest'anno ricorrono i 10 anni dall'uccisione di Vittorio Rigoni nella Striscia di Gaza e dalla fondazione del Centro Italiano di Scambio Culturale a lui dedicato, Vic, con cui collaboriamo da anni, e quindi insomma un po' per dare spazio intanto rispetto a tutto ciò che è successo a Gaza, in Palestina e anche in Israele in questo maggio scorso, e anche per continuare a fare quel bellissimo lavoro del Centro Vic di raccontare quella terra non solo attraverso le immagini di disperazione e di morte, ma attraverso le immagini di creazione anche ironiche. E sembra difficile, però è proprio così. Questi film del Nazra Festival sono tutti cortometraggi, sono sia di palestinesi fatti sulla Palestina da autori e autrici internazionali. Apro un'ultimissima parentesi sulle attività del Centro Vic. Nelle ultime settimane il progetto Gaza Green Oaks nel nord della Striscia Sharjah ha visto completare questo skate park gigantesco, che è uno skate park, pare che sia il più grande del Medio Oriente, e una tenda da circo di questo bellissimo progetto che includerà attività per l'infanzia, attività per le donne, tantissimi spazi sportivi, e verrà inaugurato, se tutto va bene, a dicembre. Quindi insomma, per noi il cinema, come nel caso di un altro festival, è anche un'occasione per guardare che cosa succede intorno a noi. E vorrei introdurre anche un altro paio di proiezioni che siamo molto contenti di presentare. Sono il film Uragano negli occhi, che è una autoproduzione del FOA Boccaccio, un centro sociale occupato di Monza, che è uno sguardo sulla Milano hardcore punk fra il 2015 e il 2020 e fra il mondo, diciamo, underground, legato anche molto agli spazi occupati, e verranno i ragazzi del Boccaccio a presentarlo questo giovedì 22 luglio, e poi fra martedì 27 e giovedì 29 luglio, per commemorare e per celebrare anche dei 150 anni della Comune parigina, proietteremo il film di Peter Watkins del 2000-2001, La Comune di Parigi del 1871, La Commune. Gran bel lavoro. È un gran bel lavoro, noi siamo felicissimi, è un film di 6 ore e 5 minuti, noi lo proiettiamo in due tranche, in due atti, da poco più di 3 ore, appunto fra il martedì e il giovedì, per permettere insomma a chi può vederlo integralmente. E siamo felicissimi di essere riusciti a recuperare la copia che i compagni e le compagne di XM24 anni fa e si impegnarono a sottotitolare in italiano, quindi è un'occasione, questo si tratta veramente di un'esperienza cinematografica particolare. Sul film non vi dico nulla, se mai andate a cercare qualcosa, ma diciamo il modo più rapido è venirselo a vedere direttamente al Forte. E altre piccole sorprese ci saranno prima delle proiezioni: presenteremo il cortometraggio The Awakening di Marco Valdis, che parla di concrezioni rocciose in questa pandemia che ci ha tutti un po' sconvolti. Il programma lo potete andare a vedere su www.fortetrestino.net, sta in prima pagina insieme a tutte le altre attività che stiamo portando avanti, o sul social Facebook del Cinema Forte, che su Facebook sono stato, si chiama Forte Cinema, dove avrete gli aggiornamenti volta per volta. Gli orari? Tutto ciò che avverrà comincerà alle 21.30, quest'anno rispetto agli anni scorsi abbiamo anticipato di una mezz'ora, proprio perché abbiamo dei film, a parte La Commune, ma anche altri film molto lunghi, quindi per permettere a tutti e a tutti anche di rientrare a casa eventualmente con i mezzi. Quindi 21.30 inizio delle proiezioni, per chi arriva prima può essere che ci saranno delle piccole sorprese di intrattenimento prima del film. Centocelle City Movies, da giovedì 8 luglio a giovedì 5 agosto 2021, un saluto e un ringraziamento a Sergio del Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino. Un in bocca al lupo e a presto! Credi, anzi viva il lupo, a prestissimo! Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per le novità del mese, con un'attenzione particolare al ventennale per le manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001. Ciao Paco. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Raccontaci. Come dicevi bene, principalmente noi questo mese, come tante altre realtà, ci stiamo dedicando e ci dedicheremo al ventennale di Genova. Questo proprio perché non si tratta e non vogliamo viverla semplicemente come una ricorrenza, che è sempre un rischio che si presenta quando gli anni cominciano a passare, ma provare in tutti i modi, attraverso anche l'arte, il cinema, il fumetto e la scrittura, a non solo riattualizzare e a fare un percorso in avanti su quello che sono le nostre narrazioni dal basso, e anche questa storia fa parte evidentemente di quelle narrazioni, ma cominciare anche a chiedersi come riuscire a trasmettere quell'esperienza a chi è arrivato dopo, perché 20 anni non sono pochi anni, nel senso, c'è il tema anche di chiedersi come far scoprire quello che sono stati quei giorni a chi magari non era nemmeno nato ancora all'epoca. Quindi per questa ragione, ma non solo, abbiamo deciso di costruire dentro la nostra piattaforma openvd.it una sezione speciale dove stiamo raccogliendo tutta una serie di film, filmati, documentari, fumetti, libri, quant'altro, che ruotano attorno a quelle giornate, ai temi di quelle giornate. Attualmente i lavori sono 4, ma ne arriveranno degli altri. 2 su tutti, che sono proprio freschi di arrivo, sono i 2 progetti a cura di supporto legale. Uno è il libro Nessun Rimorso, il libro fumetto, dove vede la partecipazione di tantissimi artisti e scrittori, tra cui Henry De Luca e Zero Calcare, e che è appena uscito, è proprio fresco di stampa, e qui siamo veramente felici e lieti di dare una mano nella distribuzione. L'altro invece è sempre ancora in supporto legale, è In campo nemico, è un documentario inedito che uscirà proprio il 20 di luglio a Genova, in anteprima mondiale, che poi farà il suo percorso per la regia di Fabio Bianchini, che è un regista che già abbiamo avuto modo di conoscere, molto molto bravo, ma ovviamente è una regia che vive di un approccio collettivo all'opera, nel senso che questo film racconta, tra le varie cose, anche quello che è stata ed è tuttora la storia di supporto legale, una realtà fondamentale non solo per cui durante quelle giornate, ma anche soprattutto sugli anni successivi e su tutto quello che è successo. C'è anche la partecipazione di Valerio Mastandrea, che è una sorta di storyteller all'interno del racconto, ed è un film che ci tenevamo molto ad avere e cui daremo ovviamente una mano nella distribuzione sia nelle città che in streaming, che è poi quello che facciamo tutti i giorni. Poi abbiamo altri due lavori che vi segnalo, uno è un altro libro, anche questo fresco di uscita, a cura dei nostri carissimi amici di Elementi Kairos, si chiama Cerchi nella memoria, Genova 2001-2021, ed è un'antologia appena uscita, proprio fresca di stampa, scritta da Primani, sempre sulla tematica di questo ventennale che stiamo vivendo. Ultimo, ma non meno importante, invece, Un film di Narino Monte, 8 punti, è un film che in realtà abbiamo in catalogo da un po' di anni ormai, 7 anni fa, ma che consiglio caldamente di vedere perché è un film veramente, veramente ancora attuale. Racconta la storia di Danilo e di Timothy Ormettano, che sono amici, e che tornano a Genova dopo alcuni anni dai fatti del G8 e che ripercorrono quello che sono le esperienze che hanno vissuto anche umanamente e personalmente in quei giorni, che è, come sempre, insomma, la storia la fanno le persone, ma è anche importante ogni tanto ricordarsi della storia delle persone, e quello è un film che vi consiglio caldamente di vedere, che è sempre molto attuale. Paco, un abbraccio, alla prossima! Va bene, grazie a tutti, a presto, alla prossima! Con Rosa Ferro, coordinatrice in Italia del progetto Cinema in Ospedale. Rosa, ben trovata. Grazie, grazie per l'invito. Ci presenti questo progetto? Questo è un progetto europeo che ha come titolo originario Film for Kids at Hospital e mette insieme attualmente 6 realtà europee, in particolare c'è la Spagna, poi il Belgio, la Svezia, la Croazia, la Slovenia e l'Italia. La cosa interessante è che questi partners europei sono tutti partners che si occupano da oltre 20 anni di media education, quindi di educazione ai media, in particolare rivolte ai bambini e ai ragazzi. Organizziamo da tanti anni rassegne, festival, e ci siamo ritrovati circa un anno e mezzo fa attorno ad un'idea che già era sviluppata dall'associazione Jeff belga, che già da qualche anno fa attività di questo tipo all'interno degli ospedali del proprio stato ovviamente, e si è pensato poi invece di sviluppare una piattaforma europea che contenesse, questa è un po' una particolarità del progetto, una serie di film in comune ai 6 paesi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che i 70 film tra lunghi, corti e mediometraggi che sono presenti in questa piattaforma li abbiamo scelti assieme, film che hanno caratteristiche pedagogiche rivolte ai bambini e ai ragazzi, e sono gli stessi che vedono i bambini e i ragazzi dei 6 paesi europei nelle 6 piattaforme. Esiste una piattaforma internazionale che è comune a tutti, e ogni paese invece ha sviluppato la sua piattaforma nazionale, perché era necessario anche rispetto ad alcuni film, per esempio, fare i sottotitoli nella lingua del paese di riferimento. È una piattaforma assolutamente gratuita, può aderire qualsiasi struttura ospedaliera che segue bambini e ragazzi, ma che sono anche a casa per cure domiciliari, perché con il Covid abbiamo visto anche molti bambini e ragazzi curarsi a casa e non negli ospedali, ovviamente lì dove era possibile. Come era partito il progetto iniziale? Nel 2014, come dicevo prima, in Belgio, ad Anversa in maniera particolare, e loro hanno sviluppato questo progetto mettendo insieme una serie di ospedali. Il progetto era andato molto bene, devo dire che loro sono una realtà anche molto più avanti di noi, perché ormai lavorano con la realtà virtuale, per esempio all'interno degli ospedali, sempre finalizzata ad alleviare la sofferenza, il dolore, lo stare lì all'interno dell'ospedale da parte del bambino, eccetera, perché ovviamente c'è uno sguardo totale alla persona che non consiste solamente nella cura della malattia in sé, ma guarda alla persona nella sua interezza. Nel 2018 si sono messi insieme tre associazioni di tre paesi europei, che erano la Svezia, il Belgio e la Croazia, e poi questo progetto si è allargato ai sei a cui facevo riferimento prima, tra cui anche noi. Tra l'altro in Italia ci sono altre esperienze di questo tipo, però non come piattaforma digitale e non con le caratteristiche a cui facevo cenno prima, cioè il bambino in sei paesi diversi, che evidentemente anche ha culture, religioni diverse, però vede lo stesso film. E anche questo è un aspetto che vorremmo valutare, no? Che tipo di impatto ha, quali sono le differenze, perché poi non ci sono solamente i film all'interno di questa piattaforma, ci sono una serie di supporti didattici o di approfondimenti o anche giochi sui film, niente di pesante insomma, che il bambino può sviluppare tutto digitale dopo aver visto il film, così come per esempio per i corti che abbiamo scelto noi in Italia abbiamo inserito gli interventi dei registi. Questo anche perché, visto che in Italia è molto ben sviluppato il settore della scuola in ospedale, abbiamo pensato anche che questa piattaforma potesse essere utilizzata non solo dal bambino, dal genitore, dall'educatore sanitario, ma anche dagli insegnanti che seguono i bambini come scuola durante l'inverno, e quindi dare anche un impianto, diciamo così, un pochino più didattico. Ecco, in questo senso il gruppo in Italia che percorso professionale ha? È la cooperativa sociale Nuovo Fantarca, di cui io sono responsabile, che è una cooperativa nata nel 99 ma che già dall'85 lavorava sotto un altro nome nel settore sempre dei media e del cinema per ragazzi. Noi realizziamo molte rassegne, un festival anche proprio in questi giorni a Bari rivolto ai bambini e ai ragazzi, facciamo parte dell'ECFA come tutti i gruppi di quel progetto. L'ECFA è la European Children Festival Association, che è una grossa organizzazione europea che raccoglie circa 200 gruppi, con cui c'è uno scambio continuo anche di formazione degli operatori. Realizziamo tantissimi laboratori di educazione ai media rivolti sempre ai ragazzi, non solo delle scuole, lavoriamo anche nelle carceri minorili, anche nei centri sociali, nei campi rom, eccetera. Quindi questo è il nostro retroterra. Il personale è un personale che ha un tipo di formazione rivolta tanto ai media quanto al discorso del counseling. In quali strutture ospedaliere sarà possibile operare? Abbiamo come partner al momento, per quello che riguarda la Puglia, l'azienda ospedaliera di Bari e di Foggia, che diciamo sono le più grandi. C'è un accordo non ancora formalizzato, però insomma ci sono delle email scambiate con l'ospedale San Gerardo di Monza, e in via di definizione quello con i Bambin Gesù di Roma. Ovviamente l'idea è quello di allargare il più possibile, perché non ci sono costi aggiuntivi né da parte nostra né da parte di chi si associa, a una piattaforma digitale per cui veramente può associarsi chiunque. Per associarsi basta andare sul sito www.cinemaospedale.it, c'è una parte dove c'è scritto aderisci al progetto, bisogna o prendere contatti con noi e c'è scritto tutto, oppure direttamente compilare il modulo, mandarcelo e noi invieremo i codici di accesso, perché sono film su cui abbiamo pagato dei diritti anche consistenti per un anno intero, e quindi ci sono dei codici di accesso, bisogna registrarsi, ecco, non è una piattaforma libera, si entra e si vede così per tutti, non può essere così evidentemente. La scelta dei titoli? Uno sulla base di una serie di film che hanno girato, sono stati apprezzati, hanno vinto festival di cinema per ragazzi. E l'altro, questo sia per quanto riguarda i corti, i lunghi e i mediometraggi, e l'altro anche la disponibilità da parte delle distribuzioni. Non tutte le distribuzioni volevano darci questi film a costi contenuti per un anno intero. Il mercato dei film è sempre un mercato molto, ma molto complicato, per cui insomma diciamo che siamo riusciti ad averli con quelle distribuzioni che si sono innamorate del progetto. Devo dire che noi abbiamo avuto dei film del tutto gratuitamente, dei corti in animazione dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino e da un'azienda privata straordinaria che è Big Rock, che produce cartoni animati in digitale per i bambini. Tutti gli altri invece li abbiamo pagati, ripeto, a costi contenuti per averli per un anno intero. Come si finanzia la struttura? Il contributo europeo è il contributo veramente minimo, sono circa 9.000 euro per partner, quindi siamo intorno ai 60.000 euro di contributo europeo che va a coprire il 60% delle spese. Noi, Cooperativa Nuovo Fantarca, abbiamo chiesto un supporto al garante regionale per i minori, quindi il garante della Regione Puglia, che ci ha offerto un altro piccolo contributo per sostenere soprattutto la comunicazione, perché uno degli aspetti complicati non era solamente riuscire ad avere 70 film, ma anche arrivare ai bambini, che in tempo di Covid è diventato tutto più difficile perché non si può entrare nelle strutture ospedaliere. Quest'anno addirittura in Puglia non sono entrati neanche i docenti della scuola in ospedale. Quindi stiamo lavorando parallelamente su strategie di comunicazione che possano poi permettere di arrivare prima possibile ai destinatari naturali di questo progetto. Quindi veramente pochissimi soldi, parliamo in totale per quello che riguarda noi di circa 15.000 euro con cui abbiamo messo su questa piattaforma, pagato i diritti dei 60 perché 10 sono gratuiti per i motivi che ho detto prima, ma anche sostenere tutto il lavoro degli operatori che è un lavoro volontario. Ti lascia tutti i riferimenti internet? Sulla piattaforma trovate veramente tutto. E la piattaforma è www.cinemainospedale.it. C'è il catalogo dei film, ci sono le modalità per mettersi in contatto con noi, modalità per registrarsi, modalità per aderire al progetto. È veramente aperto a tutte le strutture ospedaliere pediatriche che vogliano farle, private, pubbliche, insomma non facciamo differenza. A noi interessa che tutto questo lavoro arrivi ai bambini. Il progetto europeo Cinema in Ospedale, un saluto e un ringraziamento alla coordinatrice in Italia, Rosa Ferro. Grazie a voi tantissimo, grazie, crepi, grazie mille. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.